Buongiorno. Benvenuti a questa quinta lezione di jazz. Mi sembra di capire una selezione di persone pigre che hanno preferito la lezione ai 40 chilometri di corsa di maratona, è vero. La corsa è quella che ho fatto io da Piazzale Flaminio per arrivare qui in tempo. E quindi faccio anche voi, lo so, è una specie di rito collettivo, ormai lo sappiamo. No, grazie di essere qui. E oggi il personaggio di cui parliamo non ha strettamente a che fare con il jazz, anche se ha dato moltissimo al jazz. Di solito viene visto come un compositore, appunto Scott Joplin, il maestro, il re del ragtime, come è stato a lungo chiamato, che ha preparato in un certo senso il jazz. Questa è una visione secondo me errata. Scott Joplin non ha preparato niente, è semplicemente anzi un compositore che ha aperto delle nuove strade, tra cui anche quella del jazz. E in realtà il motivo per cui ho deciso di dedicare una lezione a un musicista che non è strettamente legato al jazz, ma è parte, forse uno dei grandi eroi della cultura musicale afroamericana negli Stati Uniti, è perché ieri, 1 aprile 2017, è caduto il centenario della morte di Scott Joplin. Quindi siamo proprio sul pezzo, come dicono i giornalisti. Scott Joplin è appunto un compositore È un compositore che è nato da un padre che è stato schiavo e la madre invece era nata libera. Capitava anche sotto la schiavitù che ci fossero persone che non erano schiave. E questo è il motivo per cui non sappiamo esattamente quando è nato. Chi è che stila il certificato di nascita del figlio di uno schiavo? Non ce ne importa niente, è un essere umano inferiore, di serie Z, quindi non si tiene traccia di individui di questo tipo. Nasce in una minuscola cittadina ai confini tra l'Arkansas e il Texas, che si chiama appunto Texarkana, gli studiosi pensano fra il 67 e il 68, probabilmente il 67. Vi ricordo che la schiavitù è stata abolita nel 1865, quindi suo padre, di cui sappiamo molto poco, era stato schiavo fino a 2 anni prima. Questo per farvi capire la circostanza terribile nella quale nasce l'individuo Scott Joplin, e questo ci aiuterà a capire quale eccezionale carriera abbia fatto nonostante questo inizio. Noi sappiamo che da adolescente prende lezioni di musica con un tizio che si chiama Julius Weiss, sul quale è stata fatta luce solo di recente, un personaggio picaresco, un tedesco che era fuggito dalla Germania forse per motivi politici, forse perché anche questo signore di mestiere faceva il truffatore, cioè era quello che veniva da voi, vi diceva dammi dei soldi che te li investo in vabbè, questa è una cosa che succede anche oggi, e un vero e proprio truffatore di professione, che però era anche un maestro di musica. Ed era un maestro di musica, notate, di origine tedesca, questo sarà molto importante per il resto della nostra storia, perché portava con sé, ulteriormente ad alimentare, una ricca cultura musicale tedesca che c'era già negli Stati Uniti e che si esprimeva soprattutto attraverso i cosiddetti Singverein, cioè delle associazioni dilettantistiche, e poi professionistiche di cantanti, di cantori, persone che si ritrovano insieme per cantare e che all'epoca rappresentavano l'ossatura dell'attività musicale privata e più tardi pubblica negli Stati Uniti. Quindi attenzione, la musica corale è un elemento fondamentale nella formazione di questo piccolo musicista, di questo ragazzino che però dimostra subito un grande talento. Tant'è vero che nel 1891 lo sappiamo già cantante in un gruppo di minstrels, gruppo teatrale itinerante che si faceva chiamare i Texarkana Minstrels. Poi nel 1893 è all'Esposizione Universale di Chicago, è una data fondamentale perché molti sostengono che in occasione dell'Esposizione Universale di Chicago tutti i più importanti pianisti attivi tra il Texas, il Missouri, l'Arkansas, si sono ritrovati lì e hanno cominciato a scambiarsi delle idee, e quella è stata una delle scintille da cui poi è nato il ragtime. In realtà è possibile, sostiene qualcuno, che all'Esposizione Universale di Chicago il giovane Joplin abbia avuto anche l'occasione di, come dire, di gettare un occhio anche su altre culture, perché all'Esposizione Universale era possibile vedere di tutto, c'erano padiglioni, come appunto in un Expo che si rispetti, padiglioni che mostravano gli aspetti più diversi delle varie culture. Vedremo che forse c'è qualcosa che ha a che fare anche con la cultura indù nella attività successiva di Joplin. Poi lo sappiamo, ancora cantore, vedete come cantante in un quartetto texano, lui era una voce di tenore, quindi cantava su un registro più acuto. Poi finalmente alla fine del 1894 si stabilisce a Sedalia, sempre nel Missouri, che è appunto una cittadina nella quale lui viene, alla quale viene abitualmente associato. Dal 1895 comincia a pubblicare le sue prime composizioni, e questo è interessante. Scott Joplin è un musicista ormai quasi ventenne, che che sa scrivere la musica. Questo è un dato interessante, perché vorrei ricordarvi che un afroamericano, dopo la guerra civile, cioè dopo il 1865, si trovava in una condizione di fortemente problematica a livello dell'educazione. Vi ricordo che durante la schiavitù era la proibizione più feroce che si faceva nel sotto la schiavitù, oltre alla privazione della libertà, era la proibizione di leggere, imparare a leggere e scrivere. Essere sorpresi a saper scrivere o a saper leggere poteva portare perfino alla morte. Era un prerequisito fondamentale mantenere lo schiavo nella più totale ignoranza, altrimenti il sistema stesso sarebbe stato della schiavitù, ne sarebbe uscito compromesso. Quindi abbiamo qui invece una persona che non solo è colta e letterata, sa leggere e scrivere, ma addirittura ha avuto un'educazione musicale tale per cui scrive della musica. Ci sarà stato dietro Julius Weiss? Non lo sappiamo, è molto probabile. Nel 1899 pubblica Maple Leaf Rag, che diventa un successo clamoroso. Il ragtime, la parola ragtime e il genere musicale ragtime esistono già da un pezzo, ma questo pezzo improvvisamente fa diventare famoso Joplin, e famoso il suo editore, come vedremo, John Stark, e comincia a fargli guadagnare dei soldi, oltre a accendere la miccia della moda del ragtime. Anzitutto diciamo qualcosa sul... No, prima guardiamo, finiamo di guardare un'altra cosa. In questi anni è possibile che a Sedalia lui abbia frequentato, anche qui punti interrogativi a non finire, perché non ne siamo sicuri, è possibile che a Sedalia Joplin abbia frequentato un'università, un conservatorio, il college, il George R. Smith College, che aveva dei corsi anche per gli afroamericani, ed è possibile che abbia studiato composizione dentro questo college. Ora, come funziona un ragtime? Molto sinteticamente, cercherò di fare, come dire, questa conferenza più breve della maratona. Funziona in questo modo. Anzitutto c'è un aspetto, chiamiamolo così, ritmico. Un ragtime funziona con una mano sinistra che ricorda la marcia, per esempio facendo un basso che fa così, ad esempio, che imita lo sbuffare dell'accompagnamento della marcia, della banda che marcia per la strada, e c'è una mano destra invece che a contrasto con questo ritmo di marcia, che di solito è comunque molto spedito, perché la marcia richiede, come sapete, la banda che marcia per strada si muove a un passo abbastanza svelto, nella mano destra invece ci sono tutta una serie di figurazioni ritmiche che derivano in buona parte dalle culture africane dell'Africa centro-occidentale, le cosiddette culture bantu. Quindi non musica africana in senso generico, ma di quelle specifiche culture, per capirci, dal Camerun in giù, il sud della Nigeria, il Congo, l'Angola, tutte quelle aree lì. Joplin in particolare è molto abile, questa è la prima pagina di Maple Leaf Rag, nel creare continua varietà anche nell'accompagnamento. Per esempio Maple Leaf Rag, che come sapete insomma è uno dei pezzi più famosi di Joplin, è quello che fa, ok, e qui mi aspettavo l'applauso, però scherzo. Questa figurazione ritmica, appunto, oppure più avanti nel terzo rigo, dove per esempio lui fa tap tap tap ta ta ta di do do di tom ta di do do di to di do do ta, detto a voce ancora più ritmico, e proprio sono figurazioni di tamburo che Joplin fa, di tamburo africano, però l'accompagnamento per esempio è molto più, come posso dire, molto meno da marcia. Per esempio questo basso fa, scusate, pam pam pa pa, oh, ah, cioè non è un pa un pa umae, un pa pa un pa pa un pa pa un pa pa, e poi viene spezzato, ci sono degli arpeggi, eccetera eccetera. Questo per dire che rispetto allo standard del genere Joplin è molto più libero, molto più creativo. Poi c'è un secondo aspetto del ragtime, questo diciamo è il modo in cui si scrive. Notate che è una musica tutta scritta, non c'è improvvisazione, è una vera e propria composizione dalla prima all'ultima nota, che adesso vi sembra complicato, ma poi siccome ne vedremo diversi, vi apparirà molto più semplice di come qui. Sostanzialmente un ragtime è fatto di tanti temi, di tante melodie, che si susseguono secondo un certo ordine. Sono quattro in genere, a volte sono tre, a volte sono quattro. In questo caso sono quattro, il modello standard. Ogni tema viene sempre ripetuto due volte, tranne in un caso viene suonato in una volta. I due temi sono in due tonalità diverse, la prima la tonica, la seconda va in un'altra tonalità, ma se vi sembra difficile, poi con l'orecchio vedrete che riuscirete facilmente a riconoscere tutto questo. Questo tipo di struttura è una struttura che il ragtime mutua dalla marcia per banda, nonché dalla mazurka ed ad altre forme europee. Il titolo Maple Leaf Rag, questa era la copertina originale, è il ragtime della foglia d'acero. Il Maple Leaf era un club che frequentava Scott Joplin a Fidalia, un club dove era possibile incontrarsi, suonare, chiacchierare, bere, soprattutto per afroamericani, una specie di, sì, di luogo sociale, di sala di incontro, e quindi questo pezzo è dedicato a questo locale. Noi adesso lo ascoltiamo nell'esecuzione di un pianista italiano specialista in questo genere. Il capitolo di come si esegue il ragtime è un capitolo molto vasto, vi dico solo questo, che trovare buone esecuzioni di ragtime è molto difficile, perché è una tradizione esecutiva che si è interrotta negli anni 20 ed è stata ripresa solamente nei primi anni 70. E siccome in questa tradizione esecutiva c'è molto di tradizione orale, di trucchi del mestiere che vengono detti a voce, non sono scritti sullo spartito, ricostruire la prassi esecutiva originale scusate, è un problema abbastanza complesso. Oggi cercheremo di ascoltare esclusivamente esecuzioni di buon livello, ma sappiate che mediamente le esecuzioni di ragtime che si sentono in giro, per tre quarti dei dischi che ci sono in giro, sono brutte, sbagliate o con dei problemi. Il pezzo è molto noto, lo ascoltiamo insieme. Vi prego di notare, già da questo primo ascolto, seguiremo la struttura passo passo, l'elemento africano, la propulsione ritmica potente, soprattutto nel secondo tema, vi farò notare, nella B, dove addirittura sembra di sentire un campanaccio africano che martella nel corso della parte melodica. Thank you. cambia tonalità. Botta e risposta. Pezzo meraviglioso, eseguito come avete sentito in modo spettacolare da questo pianista che non a caso è abruzzese come il vostro conferenziere, quindi c'è insomma un elemento di sangue, diciamo di... ci sono abruzzesi in sala. Per non escludere gli altri non faccio la conferenza in dialetto, altrimenti gli altri si sentirebbero estraniati. Allora, questo tipo di struttura vi fa capire una cosa, che c'è una specie di racconto nel ragtime. Cioè, il compositore scrive quattro sezioni differenti che sembrano l'una indipendente dall'altra, e per certi versi lo sono, ma che poi, sentite di seguito, creano una specie di arco. Per esempio, di regola, Joplin stabilisce che il secondo tema è quello più ritmico, e quello più melodico invece e il terzo, quello più disteso è l'ultimo, in modo che il ragtime finisca con una nota lieta, diciamo così. Mentre evidentemente, come sempre succede in musica, l'attacco è fondamentale, perché è quello che ci si ricorda poi come momento fondamentale. Questo tratto narrativo, quasi parateatrale, vedremo che sarà destinato ad avere un ruolo molto importante in Joplin. Anzi, Joplin già da subito pensa in termini teatrali, tant'è vero che, dimenticavo un dettaglio, questo è l'ufficio di John Stark, l'editore che comincia a fare soldi grazie alla sua collaborazione con Joplin. Una sola parola, diciamo, di Stark, molto importante, perché è colui a cui dobbiamo poi la diffusione dei migliori ragtime, ed è anche un interessante caso di collaborazione, chiamiamola così, interrazziale, tra questo giovane compositore afroamericano e un già anziano editore, piccolo editore musicale di Sidalia, che poi si espanderà, aprirà un ufficio a St. Louis, poi addirittura arriverà anche a New York, dove però avrà meno fortuna per tornare poi a St. Louis, ma il cui nome e la cui vicenda è strettamente legata a quella di Joplin, almeno fino a un certo punto della carriera. Vi stavo dicendo di questo aspetto teatrale perché tra il 1899 e il 1900 Joplin, che tra l'altro faceva parte di una famiglia di sei fratelli e aveva in particolare un fratello, Robert, che era un eccellente cantante e passerà tutta la vita nei gruppi di minstrel o in gruppi vocali girando per gli Stati Uniti. E anche col fratello mette a punto un vero e proprio spettacolo di cui purtroppo non abbiamo più i dettagli, e su questo il perché lo diremo alla fine, non abbiamo molti dettagli, che si chiamava The Ragtime Dance, che probabilmente era una specie di spettacolo appunto teatrale che implicava diversi momenti delle parti vocali. Sicuramente c'era una parte che oggi chiameremmo di rap, cioè di una enunciazione ritmica di un testo. C'erano delle parti danzate e il tutto poteva essere seguito anche da un quartetto vocale con un ensemble strumentale. Quindi un vero e proprio piccolo spettacolo teatrale fatto con le danze e i ritmi del ragtime. Ora noi ascolteremo la parte che Joplin ha pubblicato. Joplin ha pubblicato una specie di piccolo estratto nel corso degli anni di questo spettacolo, che ci può dare vagamente un'idea di una sorta di riassunto molto, molto così, essenziale del Ragtime Dance. Ma noi lo ascoltiamo in una versione orchestrale, non col pianoforte, Perché? Perché il ragtime veniva suonato in varie forme strumentali, ma in particolare intorno al 1912 Stark, lo vedete lì, scritto qui, Stark pubblicò quello che si chiama The Red Back Book, cioè il libro con retrocopertina rosso, infatti come vedete le copie sono tutte rosse, che consisteva in orchestrazioni dei ragtime più famosi che lui aveva pubblicato, sia di Joplin sia di altri autori. Queste orchestrazioni sono state fatte da vari personaggi, da vari autori. Qui vedete, non c'era la partitura, c'erano gli spartiti per singoli strumenti. Qui vedete per esempio la parte per flauto e qui una raccolta appunto delle singole parti che componevano un brano del Red Back Book. Noi ascolteremo un'esecuzione di The Ragtime Dance presa appunto dal Red Back Book, questa è la copertina originale dove ci sono un uomo e una donna afroamericani che danzano il cakewalk e ascoltiamo questo arrangiamento che risale appunto al 1911-12, ma il brano è degli inizi del Novecento, eseguito dal New England Conservatory Ensemble diretto da Gunther Schuller, che fu il gruppo che all'inizio degli anni 70 ha favorito la nascita e come dire, l'espandersi di un revival del ragtime. Quindi questa è una registrazione dei primi anni 70. Per avere un'idea di questo micro spettacolo teatrale, un piccolo riassunto. Alziamo un po' il volume. Tchaikovsky. Davvero. Joplin chiede che i musicisti battano i piedi per terra, sento sullo spartito e si presume che gli altri ballino. Stop time. Joplin. Time, scusate, c'è un piccolo refuso. È interessante che sullo spartito Joplin non solo scrive che i musicisti devono battere il piede per terra, ma dice addirittura di non alzare il tacco da terra, cioè di battere solo la pianta del piede, ma non con tutto il tacco. E cioè talmente preciso nell'effetto ritmico che vuole ottenere che addirittura indica perfino come deve muoversi il piede nel fare boom, boom, boom, così. Mentre tutti gli altri, evidentemente sul palco, danzano. Come vedete si tratta di una specie di piccolo arco drammatico, di piccolo spettacolo teatrale di cui abbiamo appunto, non abbiamo la parte parlata, cantata, non abbiamo la parte danzata, ma solamente appunto delle tracce, che però sono appunto estremamente interessanti. Avrete notato anche queste curiose reminiscenze sia di danze europee, sia di elementi classici, come appunto quel passaggio che ricorda Tchaikovsky, in particolare la musica per balletto. Non ci deve troppo sorprendere, io sto andando un po' a tappe forzate, ma Joplin per esempio aveva già pubblicato della musica anche descrittiva, per esempio The Crash Collision March, che è la descrizione di un evento realmente accaduto, di due treni che si scontrano. C'è un elemento descrittivo nella musica di Joplin che poi analizzeremo, è appunto teatrale. Ora, nel 1901 Joplin, che come tutti gli autodidatti, come dire, non ha mai smesso di studiare veramente, ha l'occasione a Sidalia di incontrare un importante direttore d'orchestra di origine tedesca che si chiamava Alfred Ernst, che tra l'altro era un fervente wagneriano, ed è possibile che, siccome Ernst divenne una specie di endorser, diciamo così, di sostenitore di Joplin, pubblicò un'intervista molto importante nella quale diceva: signori, questo giovane musicista è un genio, questo è un personaggio fuori del comune, tanto più che viene da un mondo, da una cultura, quella afroamericana, che fino a 50 anni prima, 40 anni prima, era in schiavitù. Ecco, pensare che ci sia un fiore così ricco è veramente impressionante. Tenete d'occhio questo musicista. È possibile che Joplin abbia studiato con Ernst e abbia approfondito degli elementi relativi, per esempio, all'opera lirica europea e al repertorio classico europeo con lui. In ogni caso, decide di andare via da Sidalia per andare nella più ricca e vivace St. Louis. Nel frattempo pubblica molti altri ragtime, la sua fama si espande, quella è la casa dove ha vissuto Joplin a St. Louis, e tra le varie pubblicazioni di quegli anni c'è quello che poi più tardi negli anni 70 diventerà la composizione insieme a Maple Leaf Rag più famosa di Joplin, The Entertainer. Voi direte: ma io non ce l'ho presente. Adesso che la sentite vedrete che la conoscete, sempre pubblicata da John Stark, come vedete, nel 1902, è un pezzo che anche qui si vede la genialità del compositore, esula completamente dalle convenzioni del ragtime, in particolare per questa melodia molto lirica, che di solito tra l'altro viene suonata sempre troppo lenta. Noi invece la sentiremo nell'esecuzione di una brava pianista che si chiama Alessandra Celletti, e potrete apprezzare la varietà nella delicatezza. Il ragtime non è solo musica sincopata, vivace, eccitante, da ballare, ma può essere, come appunto The Entertainer dimostra, e con il successo che raggiunse poi più tardi, anche una musica profondamente lirica. Thank you. musica che ha una, non so come dire, una messa a fuoco delle emotiva, una messa a fuoco delle idee musicali, fresche, inedite, mai sentite prima. Oggi ci suona familiare perché sono passato più di un secolo, ed è uno dei pezzi più famosi di Joplin, ma all'epoca apriva una nuova strada nella musica, non c'era niente di simile in Europa, non c'era niente di simile in Debussy, non c'era niente di simile in Scriabin, non c'era niente di simile in Rimsky-Korsakov, nei russi, negli italiani, nei francesi, ma figuriamoci poi negli Stati Uniti, che all'epoca, come vedremo, erano un paese musicalmente molto arretrato dal punto di vista dell'identità musicale. E qui c'è il figlio di uno schiavo che ha la capacità non solo ideativa, ma realizzativa di offrirci un mondo musicale completamente nuovo e messo a punto con dovizia di dettagli e assoluta originalità. Il mondo del ragtime in Joplin è un mondo sonoro, dicevamo narrativo, ma è anche, a saperlo decifrare, è un mondo in cui si raccolgono in modo quasi autobiografico tutti i suoni che sono intorno a lui, tutte le musiche che sono intorno a lui. Ogni tema nei ragtime di Joplin allude ad una storia, allude ad un oggetto a volte, allude ad un evento, ma allude anche ad un mondo musicale. Per esempio può alludere a quel mondo musicale nel quale lui è cresciuto, le gighe contadine per violino di origine europea, la musica per banjo contadina, che è fondamentale dentro il ragtime. Molti dei ritmi del ragtime sono trasposizioni sul pianoforte delle figurazioni del banjo. La marcia, naturalmente, ma anche degli elementi cubani che non sono affatto rari nella musica del Texas, per esempio nella musica popolare, come sentiremo in questo brano. Ecco, tutto questo viene raccontato e riassunto con straordinaria, abbiamo visto, lucidità e coerenza dentro queste brevi piccole composizioni, sulle quali peraltro Joplin si raccomandava di non improvvisare, ma di seguire scrupolosamente il dettato compositivo. Elite Syncopations, pubblicato nel 1902, è un meraviglioso esempio, molto chiaro, vedrete, di cosa vuol dire radunare dentro un racconto le musiche più diverse che ho intorno a me. Noi, per apprezzare questo aspetto, ascolteremo una versione, come vedrete sono sempre italiani, ma non per, come dire, sciovinismo o campanilismo, ma perché effettivamente alcuni gruppi italiani sono tra i migliori del mondo nelle esecuzioni del ragtime. In particolare qui a Roma c'è Alessandro Panatteri, che è un ex amico perché non lo vedo, quindi già chiuso con lui, ma forse non lo sapeva neanche che qui ero qui, che dirige appunto dirigeva un gruppo che non esiste più, l'Alexander's Ragtime Band, e loro hanno fatto, hanno sia inciso il Red Back Book, alcuni brani dal Red Back, sì, hanno fatto delle orchestrazioni ad hoc. Quella che hanno fatto di Elite Syncopation è magnifica, proprio perché fa risaltare tutti questi elementi strumentali di musiche diverse radunati dentro un ragtime. Cubano. È più ragtime. Marcia, un cakewalk, una danza. Thank you. contadina. La giga. Molto folk. Ora il banjo portato sul violino, sul piano. Di, anche qui dovete anche misurarlo con la musica che voi conoscete di quel periodo, Mahler in Europa, Strauss, negli Stati Uniti quasi niente effettivamente, o la musica cubana tra 800 e 900 come quella di Ignacio Cervantes. Questo è un mondo completamente inedito. Joplin sta aprendo una nuova frontiera sostanzialmente da solo, anche se ovviamente è circondato dalle musiche più diverse, ma lui sa ordinarle e dargli un senso musicale pieno, narrativo, compiuto. C'è un elemento descrittivo, dicevamo, nella musica di Joplin, non solo delle musiche che lo circondano, ma anche proprio dei fatti. Questo elemento narrativo, descrittivo, contenutistico, è qualcosa che di solito i musicologi o chi si occupa di estetica musicale europea tende a considerare in modo volgare, cioè come dire, la musica non descrive la realtà, la musica deve occuparsi di sentimenti elevati, astratti, più è astratta più è sublime, più si sporca le mani nella realtà più è musica terra-terra. Non funziona così evidentemente, tantomeno nella cultura afroamericana, nella quale invece l'elemento fortemente descrittivo è centrale. Ricorderete perfino in una forma come la fuga che abbiamo studiato la settimana scorsa, quella Concorde del Modern Jazz Quartet, abbiamo trovato un elemento descrittivo di Place de la Concorde di Parigi all'interno di una struttura così astratta come la fuga. The Cascades, le cascate, è la descrizione dei giochi di fontane. Qui non si vede in questa copertina, dove tra l'altro compare una delle uniche due fotografie di Joplin che conosciamo, che è messa lì al centro. The Cascades è la descrizione dei giochi d'acqua, diciamo così, che Joplin ebbe modo di apprezzare nella sua città quando si aprì l'esposizione universale a St. Louis nel 1903. C'è anche un bellissimo film di Vincent Minnelli, Meet Me in St. Louis, con Judy Garland, che racconta di alcune vicende legate alla preparazione dell'esposizione universale del 1903. Joplin era lì. E nello scrivere una descrizione in forma ragtime dei giochi d'acqua rientra in una grande tradizione classica, come sapete, tra cui quella di Liszt, per esempio, o come i giochi d'acqua a Villa d'Este descritti da Liszt, oppure di Ravel e di altri compositori. Il tema dell'acqua è un tema che ha sempre affascinato i compositori di ogni epoca e di ogni estrazione, proprio perché si tenta di riprodurre con qualcosa di più meccanico come la musica la fluidità e la libertà di movimento dell'acqua. Sentirete che The Cascades, nel procedere dei diversi temi, è tutto un fiorire di figurazioni che salgono e scendono. E non è difficile, se avete in testa questa idea che lui stesso ci suggerisce nel titolo, riconoscere i diversi elementi acquatici di The Cascades. La esecuzione viene dal Red Back Book. Probabilmente l'arrangiatrice è la figlia di Stark, Eleanor Stark, che era una magnifica musicista che fece anche da consulente a Joplin nei primi anni in cui lui era a Sedalia, e l'esecuzione è New England Conservatory Ensemble. Ecco. che... dimenticato di mettere l'ultimo segmento, vabbè, scusatemi, è stato un piccolo errore, perdonatemi. Quello che però volevo dire a proposito di Elite Syncopation è questo, che avete notato che Joplin considera, attraverso la metafora dell'acqua, riesce a farci considerare la struttura del ragtime come una struttura plastica, è fatta di tanti segmenti che si assommano uno dopo l'altro, ma in realtà lui cambia continuamente forma, cambia continuamente racconto. Per esempio, abitualmente in un... questo è Elite Syncopation, scusate. In un ragtime le tonalità salgono una quarta sopra. Cioè, voi avete Do, il tema C va quattro note sopra. Do, Re, Mi, Fa. Ok, quindi c'è la parte Do. Poi quando entra il tema C si va a Fa. Invece Joplin qui fa qualcosa che nessuno aveva mai fatto prima, va a Si bemolle, voi direte che vuol dire? Va in un'altra tonalità, cioè invece di fare, va qui. Voi direte è importante, è molto importante, perché è una convenzione che viene rotta. E la convenzione viene ripristinata dopo, quando da Si bemolle va quattro note sopra, Si, Do, Re, Mi. Ci va. Per mia come dire, sbadataggine mancava nello schema l'ultimo tema, per cui Joplin riprende anche la A, ma questo lo vedremo in un esempio successivo, riprende la A e quindi ritorna al tema iniziale, sta rompendo anche la struttura tradizionale del ragtime. Questo vi dà l'idea anche di quanto vasta fosse l'immaginazione di Joplin e di quanto stesse tendendo verso qualcos'altro. Joplin aveva aspirazioni compositive che andavano ben oltre i confini, per tutto sommato anche angusti, del ragtime. Ambiva a scrivere un'opera e la scrive un'opera. Scrive un'opera lirica che si chiama A Guest of Honor, un ospite d'onore, che doveva andare in scena a St. Louis, a Cincinnati, scusate, nel settembre 1903. Che cosa succede? Succede che Joplin scrive l'opera, scrive la partitura, mette su insieme la compagnia, trova un produttore bianco che ci mette i soldi, vanno in un'altra città dove devono fare la prima e arrivati qui poggiano tutte le cose in una casa dove... che avevano affittato, in un piccolo appartamento che avevano affittato, perché agli afroamericani non era permesso entrare negli alberghi, quindi la compagnia non va in hotel, ma va in una casa, se non che il produttore che doveva arrivare con i soldi anche per pagare l'affitto e l'anticipo, perché non è che tu fai entrare un negro a casa tua senza che questo paghi un anticipo, il produttore sparisce, non arriva con i soldi. Joplin è in teatro, con il pubblico in teatro, che sta entrando in teatro, siamo nel pomeriggio, e lui si accorge che il proprietario della casa tiene in ostaggio tutti i bauli con i costumi, e la partitura che non darà alla compagnia finché non viene pagato un anticipo. Joplin non ha una lira in tasca, aspetta i soldi di quest'uomo che deve arrivare, arriverà, non arriva. Sta per iniziare lo spettacolo, passano le ore, i soldi non arrivano, il proprietario della casa dice finché non mi date i soldi io non vi ridò indietro neanche mezzo scatolone. Succede che questi soldi non arrivano, lo spettacolo viene cancellato la sera stessa davanti al pubblico e dato che nessuno porta i soldi, questi scatoloni vanno perduti. I costumi, la partitura intera, l'opera, tutto. Immaginate la frustrazione, la tragedia di un compositore che avrà passato mesi, forse anni a scrivere quest'opera e se la vede cancellata perché lui è un negro che non ha diritti e deve star dietro ai soldi di un bianco che non arriva, che lo ha truffato ed è costretto davanti al pubblico a dire signori, lo spettacolo non si fa e non può più recuperare questo materiale. La grande tragedia è che tutta l'opera A Guest of Honor è andata perduta. Noi non abbiamo una nota di musica. Di cosa parlava però? Riusciamo a immaginare di cosa parlava Guest of Honor? Attraverso una serie di studi si è riusciti a capire di cosa parlava Guest of Honor. E Guest of Honor, l'ospite di onore, è quell'uomo che vedete al centro della foto, Booker T. Washington, uno dei più popolari, forse il più popolare, leader afroamericano di quegli anni. Perché? Perché Washington era stato ricevuto, caso unico e primo caso della storia, primo leader afroamericano a essere ricevuto dal presidente degli Stati Uniti, Theodore Roosevelt, che l'aveva invitato alla Casa Bianca. Quindi Joplin, che era un seguace delle idee di Washington, che tra poco vi dirò quali sono, ha deciso di scrivere un'opera su un momento epocale del suo popolo. Il riconoscimento politico da parte del presidente degli Stati Uniti del leader della loro comunità. Quindi questa, anche se non abbiamo più neanche una nota di musica, è un'opera profondamente politica. Booker T. Washington era peraltro un personaggio molto discusso perché proclamava l'idea che la posizione degli afroamericani nella società statunitense non dovesse essere di opposizione e lotta, ma di integrazione, cioè lui diceva assecondiamo la volontà dei bianchi e un giorno anche noi saremo dentro le stanze del potere. Diciamo una versione assimilazionista che poi si opporrà a quella di un grande filosofo, Dubois, che di lì a pochi anni si affermerà con una visione completamente opposta, cioè noi siamo afroamericani, noi dobbiamo lottare per i nostri diritti senza cedere di un millimetro al potere dei bianchi. Erano due posizioni opposte, all'epoca Joplin era molto vicino alle posizioni di Washington, peraltro come vedremo era anche vicino a delle posizioni socialiste perché aveva avuto a che fare con degli attivisti socialisti, ma su questo torneremo. E Guest of Honor è una tragedia, quindi non esiste più, non sappiamo niente se non che parlava di questo aspetto. Ma Joplin è uno che non si piega facilmente, anche se nella vita ne ha dovute subire di tutti i colori. Che cosa succede nei tempi successivi? Tra il 1903 e il 1904 probabilmente incontra un compositore italiano. Notate che sono tedeschi, italiani, Alfred Ernst, Julius Weiss, Rocco Venuto, tutte persone che hanno molti meno pregiudizi nei confronti degli afroamericani, anche perché vengono da una cultura. Spesso, per esempio, come un personaggio che vedremo dopo, a volte vengono dall'anarchismo o dal socialismo e quindi, come dire, sono ben disposti ad avere a che fare con una persona che nella sua società invece è trattata come l'ultimo degli ultimi. Rocco Venuto è un compositore che probabilmente si ipotizza, e lo ipotizza Marcello Piras, potrebbe aver fatto scoprire a Joplin un compositore che il wagneriano Ernst non apprezzava molto, Giuseppe Verdi, perché in alcune composizioni dell'epoca di Joplin, per esempio una marcia che si chiama Antoinette, ci sono chiaramente degli echi verdiani. Da dove li ha presi? Probabilmente Rocco Venuto, che era il bibliotecario dell'Orchestra Sinfonica di St. Louis, avendo avuto contatti di Joplin, aveva anche accesso alle partiture dell'orchestra. Poi finalmente arriva il grande amore. Il 14 luglio 1904 sposa una ragazzina di 19 anni, lui ne ha più di 30, che si chiama Freddy Alexander. Da quello che sappiamo fu un amore straordinario. Freddy Alexander, tra l'altro, era un'afroamericana di origini borghesi e quindi portò nella famiglia Joplin, come dire, un senso di legittimazione, di affermazione sociale che il Joplin, figlio di uno schiavo, stava cercando di inseguire. Questo felice matrimonio porta i due a trasferirsi da St. Louis, a tornare a Sedalia, la città nella quale Joplin aveva visto le sue prime grandi affermazioni professionali. Ma c'è un'altra tragedia che incombe. Freddy Alexander si ammala di polmonite e a poco più di 20 anni, aveva da poco fatto 20 anni, muore il 10 settembre 1904. È un colpo micidiale da cui Joplin farà un'enorme fatica e forse non si riprenderà mai da questa immane tragedia. Non ci stupisce pensare che decide di lasciare definitivamente Sedalia per tornare a St. Louis. Nel frattempo le cose però per la sua musica vanno abbastanza bene, al punto che il suo editore John Stark, poi lui non pubblica tutti i suoi reg per Stark, a volte pubblica per altri, non sempre c'è un accordo fra i due, però insomma Stark si allarga e addirittura apre un ufficio a New York, quindi in qualche modo aprendo anche la strada verso New York per lo stesso Joplin. E Joplin nel 1905 comincia a lavorare a una nuova opera che si chiama Trimonisce, nella quale, come vedremo, il ricordo di Freddy Alexander gioca un ruolo importantissimo. Ora, Joplin non è solo autore di ragtime. In quegli anni, ma anche prima, scrive i generi più diversi. Joplin, per esempio, ha pubblicato delle bellissime canzoni. Una di queste le ha scritte appunto con un paroliere che in realtà era un militante socialista. Ma ha scritto anche dei bellissimi delle marce, come vi citavo prima Antoinette, e ha scritto dei valzer per pianoforte di carattere più americano che europeo, cioè con degli elementi sincopati, un tempo un po' più rapido dei valzer di Strauss, un senso di fluidità ritmica maggiore. E Bethina, che è dedicata a una sua amica che vedete ritratta nella foto, è un valzer del 1905, è Concert Waltz, sottotitola Joplin nella copertina, ed è un vero e proprio capolavoro. Lo ascoltiamo integralmente nell'esecuzione di Alessandra Celletti, se non ricordo male. Sì. Thank you. Magari chiedetevi perché i grandi concertisti non suonano mai questi pezzi e se dietro non c'è una specie di sottovalutazione di una sorta di razzismo quasi inconsapevole, no? Chi è che va a suonare i pezzi di Joplin a fianco a quelli di Chopin? Vogliamo scherzare? Sì, vogliamo scherzare, vogliamo provarci. Tra l'altro c'è una specie di respiro da poema sinfonico, anche in certi passaggi come da Fa maggiore a Si minore, che sono, per chi è più specialista, è una modulazione molto audace, che, insomma, che non si fa che non in questo genere di pezzi, invece da un respiro ampio, profondo, narrativo, molto intenso a un pezzo del genere. Andiamo avanti con la carriera di Joplin. Nel 1906 Joplin collabora con un suo giovane amico, che ha 20 anni meno di lui, Louis Chauvin, alla composizione di Heliotrope Bouquet. Tra l'altro i pezzi di Joplin sono pieni di riferimenti al mondo floreale. Adesso qui ne sono capitati pochi nelle mie scelte, ma ci sono moltissimi riferimenti appunto al mondo floreale. Ma la cosa che mi interessa di più è farvi notare come Joplin in realtà abbia nel tempo collaborato con molte altre persone. Cioè lui aveva un giro di allievi e di amici con i quali ha convissuto, ha condiviso tante avventure musicali e ai quali ha anche insegnato o di cui ha lanciato la carriera, aiutandoli per esempio a trovare un contratto con il suo editore John Stark. Noi abbiamo tutta una serie di pezzi scritti da Joplin a quattro mani con altri compositori. Arthur Marshall era un suo vecchio amico di gioventù, Scott Hayden, Louis Chauvin, probabilmente il più geniale di questi musicisti, James Scott, un altro gigante del ragtime di cui scrisse delle orchestrazioni, e l'unico bianco, Joseph Lamb, che andò da lui dicendo: io sono un musicista di ragtime, e meno male che l'ha fatto, perché altrimenti sarebbe rimasto sconosciuto. Joplin ha riconosciuto in questo compositore del genio e lo ha instradato verso Stark, che poi ha pubblicato una serie di ragtime che oggi sono considerati, come dire, dei punti di riferimento. Tant'è vero che c'è una specie di trinità del ragtime che è fatta da Scott Joplin, James Scott e appunto Joseph Lamb. James Scott e Joseph Lamb, questa è la trinità. Ora vorrei farvi ascoltare Heliotrope Bouquet, perché è un esempio meraviglioso di collaborazione fra due musicisti. Chauvin, tra l'altro, purtroppo è morto giovanissimo di sifilide, penso 25-27 anni, adesso non ricordo l'età esatta, ma insomma, ed era un musicista veramente geniale, ma uno scapestrato. Tra l'altro Chauvin non aveva neanche una conoscenza musicale di scrittura pari a quella di Joplin, per cui Joplin l'ha anche aiutato a buttare giù su uno spartito le sue idee musicali in modo da poterle pubblicare. Chauvin aveva delle idee assolutamente fuori del comune, e qui è straordinario vedere come un genio come Joplin che si adegua alle idee del suo amico invece che imporgliele. Per farvi capire direi di ascoltare Heliotrope Bouquet, che fu pubblicata nel 1907, vedendo chi ha scritto cosa, e poi scendiamo un attimo nel dettaglio. E segue Marco Fuo. C'è un'introduzione. Il tempo cubano. Questo l'ha scritto Chauvin. Thank you. erano scritte dalla stessa mano e invece sono di due mani diverse. Tra l'altro l'idea principale di Chauvin è questa. C'è questo ritmo, pa pa pa pi, pu, pu, pi, eccetera. Questa idea viene poi ripresa dallo stesso Joplin più tardi, quando lui, per esempio, ti, tu, da questa idea, pa, pa, pa, e lui, Joplin nel suo tema scrive, oh, scusate, pa, pa, pa, è la stessa idea. Sono piccole cellule che ritornano. Per esempio, nell'introduzione Chauvin scrive. Tararara, tararara, e Joplin scrive delle frasi come. Ta ta ta ta ta ta ta. Cioè la frase è diversa, ma il ritmo è lo stesso. Sono tutti piccoli dettagli che servono a rendere coerente il tutto, non ce ne rendiamo conto, ma appunto tutto suona come parte di un'unica mano, anche se poi Joplin tende a fare l'accompagnamento stride di marcia tradizionale, mentre Chauvin lo evita continuamente. Andiamo avanti con la nostra storia. Con la strada aperta dal suo editore John Stark, che si era trasferito a New York, Joplin, che era sempre stato un provinciale, Texarkana, Sidalia, St. Louis, che era certamente più grande, fa il grande salto e decide di affrontare, visto il successo che sta avendo la sua musica, la grande città New York, ma forse ha anche altri piani in testa, non c'è solo questione di, come dire, di farsi conoscere di più, deve avere qualcos'altro in testa. Tra l'altro in quegli anni pubblica un suo breve piccolo manuale, ce n'erano altri in giro, ma lui ci tiene che la gente suoni la sua musica esattamente come lui l'ha scritta, quindi si autopubblica a proprie spese un manuale che si chiama School of Ragtime. Poi cambia editore, non lavora più per John Stark ma per la Seminary Music, che dovremmo dedicare un'intera lezione a quei 7, 8, 9 titoli che pubblica per la Seminary, che sono tra le cose più belle in assoluto della musica americana dei primi Novecento, che sono i ragtime di questa fioritura del 1907-8, in cui Joplin sembra, come dire, rinascere, avere dentro di sé un flusso di musica che lo porta a sperimentare la forma ragtime in modi nuovi e avere idee continue sempre più fresche. Forse perché in quegli anni noi sappiamo che riprende gli studi musicali, perché ha in testa qualcosa, ha in testa delle ambizioni più grandi e non è mai contento di quello che sa fare. Non sappiamo bene con chi studia, ma sappiamo che prende contatti con varie persone. Uno dei frutti del periodo della Seminary è uno dei massimi capolavori della musica del primo Novecento, ed è questo ragtime che si chiama Solace. In realtà Joplin non lo chiama ragtime, ma il sottotitolo è A Mexican Serenade, una serenata messicana. Lui la chiama messicana, noi potremmo dire cubana, ispanica, come dire, di area caraibica, diciamo del Golfo del Messico. È una delle più straordinarie fusioni tra musica dei neri statunitensi e musica dei neri del Golfo del Messico, cioè musica cubana. E il lirismo di questo pezzo è straordinario, tutto giocato su una piccola cellula che sale e scende come un piccolo pianto malinconico, e questo è Soles. Di danza cubana. Thank you. rendete conto dell'ampiezza del respiro della ispirazione giopliniana che passa da Maple Frag a Soles a The Cascades al Walzer Bettina e non abbiamo ascoltato le marce, le canzoni, c'è un'opera che è andata perduta, è un mondo vastissimo. È un mondo vastissimo capace anche di rinnovarsi, perché Joplin in questa produzione del 1908-9 forza i limiti della struttura del ragtime e introduce degli elementi di dramma e di conflitto che prima non c'erano. Avete sentito che i ragtime di Joplin possono essere estremamente vitali, di affermazione potente della vita, o molto malinconici, come nel caso di Soleis, o perfino nel caso del Walzer Bettina. Ma in questi ragtime dell'ultimo periodo viene introdotto un elemento di conflitto che si manifesta soprattutto in passaggi armonicamente instabili, molto cupi, che poi magari vengono scacciati via dalla riaffermazione positiva del tema iniziale. Ma questa riaffermazione positiva rompe la tradizionale successione dei temi. Per riaffermare il finale devi raccontare le cose in maniera diversa. Euphonic Sounds del 1909 è probabilmente uno dei suoi pezzi più audaci da un punto di vista formale. È un pezzo che anticipa il jazz. Per esempio, si basa, solo per dirvi, i primi due gesti. C'è una travolgente figurazione iniziale piene mani, pam pam pa pa pa pam, concertistica, da grande concertista classico, e un attimo dopo c'è una figurazione ritmica cubana sospesa per aria. E subito dopo il gesto concertistico, quasi alla Liszt o alla Chopin. Il tutto poi, come vedrete, seguito da molti altri episodi contrastanti. Thank you. pezzo anche questo veramente straordinario. Nel frattempo Joplin in effetti sta scrivendo un'opera, si chiama Trimonisha, ne parleremo fra breve, ma non l'ha finita, l'ha terminata, l'ha scritta, ma non riesce a trovare un produttore, la maledizione di Guest of Honor è dietro l'angolo. La sta scrivendo dal 1905 almeno, ha studiato con vari musicisti per saperne di più sull'opera, per imparare a orchestrare meglio, ma niente, a New York, nonostante sia a New York, per vari motivi, tra cui, devo dire, molti rimangono misteriosi perché c'era un'attività teatrale afroamericana piuttosto vivace a New York in quegli anni, Joplin non riesce a inserirsi. Allora decide di pubblicare a proprio nome, stampando la spizzichi e bocconi, un po' alla volta presso stampatori diversi, man mano che aveva i soldi evidentemente, la partitura di Trimonisha, o meglio lo spartito per canto e pianoforte non orchestrato di Trimonisha in proprio, e la vende per $2.50, per chi volesse avere l'opera di questo importante compositore a casa. Ma chiaramente avere la parte per canto e pianoforte non serve molto, ma lui è comunque è un modo per come dire, affermare l'esistenza di quest'opera, è la sua seconda opera teatrale. Incontra un'altra donna, Lottie Stokes, con cui va a convivere e con la quale tra l'altro stabilirà anche un'importante relazione economica, nel senso che loro due diventano non solo partner nella vita, ma diventano anche partner commerciali, stampano insieme la musica, registrano al copyright i pezzi, insomma mettono su una piccola impresa, perché Joplin non trova ascolto, le sue idee cominciano a andare ben oltre gli orizzonti angusti nei quali l'editoria musicale vuole contenere gli afroamericani. Sei negro, fai il ragtime, non rompere le scatole, non le opere o chissà che. Invece Joplin ha ben altre ambizioni, sta rompendo tutti gli argini, sta andando, come direbbe Duke Ellington, oltre tutte le categorie, e per farlo gli tocca mettersi in proprio, il che per un piccolo imprenditore afroamericano nella New York degli anni 10 è praticamente impossibile. In ogni caso non si ferma, revisiona Trimonisha, addirittura accusa Irving Berlin di avergli rubato una melodia che poi diventa Alexander's Ragtime Band, e forse ci aveva ragione. Poi incontra un personaggio pazzesco, la cui vita è stata ricostruita da Marcello Piras, Bruto Valerio Giannini, un musicista e compositore italiano, figlio di un anarchico lui stesso, che è Garibaldino, pensate che storia, Garibaldino che poi emigra negli Stati Uniti, incontra Joplin e diventerà maestro di musica di alcuni dei più importanti compositori afroamericani, su tutti Scott Joplin e James P. Johnson. Giannini tra l'altro è testimone di tutta un'altra serie di avventure che probabilmente racconta Joplin, insomma è un incontro molto importante che è stato adesso di recente, proprio molto di recente, documentato in maniera più dettagliata. Vedete ancora una volta un italiano che incontra, come dire, la storia di Joplin. Abbiamo detto che con la compagna riesce a mettere su una sua casa editrice e nel 1914 a suo nome pubblica Magnetic Reg, il suo ultimo reg conosciuto. Magnetic Reg è un ragtime pazzesco che adesso ascolteremo prima di passare per concludere a Trimonisha. Il titolo Magnetic non ha a che fare con il magnete tradizionale, ma ha a che fare invece con l'ipnosi, cioè col magnetismo, diciamo, psichico, perché probabilmente, sostiene Marcello Piras, Bruto Giannini era stato in Sardegna, tra l'altro testimone di alcuni dei primi esempi di ipnosi che conosciamo, e li aveva probabilmente raccontati a Joplin, e Magnetic Reg potrebbe essere, se non in modo puntuale, ma in modo più vago, come dire, la descrizione di cui Piras offre una descrizione molto dettagliata sulla quale io non del tutto concordo, ma comunque una specie di descrizione di questa seduta di ipnosi come gliel'avrebbe raccontata Bruto Giannini. La copertina è estremamente, come vedete, sobria, non ci sono colori, non ci sono stampe particolari, è prodotta in proprio, la Scott Joplin Music Publishing Company di New York, e quindi non ci sono... Lui, vedete, dice che ha scritto Maple Leaf Reggae e Euphonic Sounds, che sono due reggae che hanno avuto successo. Maple Leaf Reggae continua a essere un best seller che fa le fortune relative di John Stark, che ormai però è, come dire, lontano. E noi ascoltiamo Magnetic Reggae, che è molto più vicino a una specie di libero pezzo da concerto di quanto siano tutti gli altri ragtime. È una delle pagine più visionarie, appunto, del ragtime in assoluto. È un pezzo armonicamente molto audace che contiene, attenzione, quegli elementi di dramma, di conflitto, di anche ambiguità formale che abbiamo già visto in modo embrionale in Euphonic Sounds e che prendono il sopravvento negli ultimi ragtime. Qui Joplin sta scrivendo vera e propria musica da concerto e la pubblicizza anche sui giornali come tale, Music for the Stage, musica da concerto. Aggiungo un'altra cosa. C'è un'altra traccia dell'incontro con Giannini. Noi qui non vediamo lo spartito, ma per la prima volta Joplin sullo spartito indica tutta una serie di prescrizioni espressive in italiano, piano, forte, un moderato, un po' allargato, cioè tutte le indicazioni sono scritte in italiano, quindi, come dire, avvicinandosi alla tradizione concertistica e probabilmente facendo proprie le indicazioni ricevute da Giannini. Molto narrativo. Attenzione, perché adesso arriva un blues addirittura. Thank you. che questo somiglia più a un brano da concerto che a un ragtime vero e proprio, con dei gesti assolutamente inediti, come questo passaggio dalla tonalità di Si bemolle maggiore a quella di Si minore. Sembra quasi un momento alla Brahms in quel passaggio lì, veramente impressionante. Questo è l'ultimo reg pubblicato da Joplin, poi ne sono stati scoperti altri, ce ne sono degli inediti, insomma ci sono altri materiali. Volevo farvi notare il dettaglio del blues, perché il blues compare non di rado nella musica di Joplin. Per esempio in un passaggio della Ragtime Dance, quando si sente questo passaggio... tipico del blues, appena appena accennato. Faccio risentire. No, andiamo direttamente a Pineapple Reg, ho fatto un po' di casino, va bene. Questo è un altro tema. Sentite qui il tema di Pineapple Reg. Andiamo verso la fine della vita di Joplin. Finalmente nel 1915 riesce, pur non riuscendo a produrre Trimonisha, che non riuscirà mai a vedere, di cui non riuscirà mai a vedere una produzione, però riesce a vedere un concerto nel quale gli suonano una scena di danza, Frolic of the Bears, orchestrata da lui, che viene da Trimonisha, almeno è qualcosa. Nel 1916 vengono pubblicati 7 rulli di pianola che sono stati perforati dallo stesso Joplin. Quindi abbiamo anche questa testimonianza. Ma nel gennaio del 1917 viene ricoverato in ospedale. Da tempo Joplin è malato, purtroppo è malato di sifilide. E quindi la degenza dura poco. Esattamente 100 anni fa muore a New York di sifilide terziaria, ma è sepolto nella città, diciamo, nella quale ha vissuto alcuni dei suoi momenti migliori e più felici anche artisticamente, cioè St. Louis. Concludiamo il nostro incontro parlando molto brevemente, magari un giorno gli dedicheremo un'intera lezione, a quello che è il lascito più pazzesco di Joplin, cioè Trimonisha. Composta fra il 1907 e revisionata fino al 1913, abbiamo visto pubblicata nel 1911, mai messa in scena compiutamente quando Joplin era in vita, poi vediamo una breve cronologia. Trimonisha è un'opera, di cosa parla Trimonisha? È un'opera incredibile, è un'opera in 3 atti, dal sapore, diciamo, lontanamente verdiano, per capirci, cioè da opera italiana. In realtà il riferimento di Joplin, secondo chi ha studiato a fondo la materia come Marcello Piras, non è neanche Verdi, di cui pure ci sono dei, diciamo, degli elementi interni, ma è il Freischütz di Carl Maria von Weber, perché senza, qui non abbiamo il tempo di entrare nei dettagli, Piras secondo me correttamente sostiene che mentre il Freischütz è il Franco Cacciatore di Weber, l'opera composta alla metà dell'Ottocento che segna, come dire, la fondazione del nazionalismo musicale tedesco sotto forma di una leggenda che gronda sangue, che gronda violenza, una storia di patto col diavolo legata a delle pallottole che devono uccidere, questa è alla fusione di pallottole che devono uccidere da parte di un cacciatore che appunto deve vincere una prova facendo un patto col diavolo, quindi una storia cupa, ossessiva, legata alla violenza e al sangue, a un patto appunto col diavolo. Trimonisha, che contiene tantissimi elementi simili al Freischütz, l'ambientazione eccetera, è invece un'opera in cui, come dire, la conquista del potere avviene attraverso l'opzione opposta, cioè il pacifismo. Trimoniscia è la storia di una ragazzina, Trimoniscia appunto, con la parola tri, albero, Moniscia è il nome della madre, che la madre ha trovato come Mosè sotto un albero, una notte, l'ha sentita piangere, l'ha cresciuta, e l'ha cresciuta in una comunità che Joplin dice vive sotto il giogo della superstizione. Ci sono altri afroamericani, loro sono schiavi, ci sono altri afroamericani che giocano sulla superstizione di queste persone e le tengono così sotto il loro giogo. Trimoniscia invita i suoi, le persone della sua comunità a liberarsi dalla superstizione, a usare la testa, a usare la ragione, a non fidarsi della religione, per esempio, del predicatore che li inganna. Anzi, c'è una scena straordinaria nell'opera, non è che il predicatore li inganna, mentre il predicatore predica, Trimoniscia viene rapita sotto gli occhi di tutti, che stanno a sentire il predicatore, ma non si accorgono che i due maghi, che vivono ovviamente degli inganni alle spese della comunità, hanno rapito Trimoniscia e la vogliono uccidere. E in una scena di bosco, che è il parallelo di quella del Freischutz, tentano di ucciderla gettandola in un nido di vespe. Trimoniscia verrà liberata e, al contrario del franco cacciatore, invece di basare la sua azione sulla vendetta, decide invece di basarla sul perdono. Trimoniscia perdona i suoi rapitori e presunti assassini e li lascia liberi e invita la comunità a liberarsi dalla superstizione e diventare moderna, razionale, illuminata. A quel punto la comunità fa un gesto incredibile, gli chiede di diventare la sua leader, ad una donna, nel 1911. E Trimoniscia dice sì, posso diventare la leader delle donne, ma non degli uomini. Gli uomini dicono no, sì, la nostra leader. E con un finale in cui socialisticamente si parla di marciare in avanti, l'opera finisce. Io vi faccio vedere, prima di concludere, l'opera dura circa un'ora e mezza, un frammento, perché del primo atto, poi ve ne faccio vedere anche un altro, ma voglio prima farvi vedere questo. Joplin, come nei ragtime, prende musica a 360 gradi. C'è il valzer, per esempio la scena in cui Moniscia racconta di aver trovato sua figlia, Trimoniscia, tra l'altro Moniscia è un nome indù, di una divinità, quindi c'è anche questo elemento induista. Moniscia racconta di aver trovato la figlia in una notte con un valzer, un'aria che è un valzer. Joplin scrive delle parti corali degne di Handel e non ci deve stupire, è cresciuto con la lezione di Julius Weiss, ha cantato in coro per tutta la vita, ha studiato i cori probabilmente verdiani e tedeschi di Weber. E quindi, dicevo, prende anche il folklore che lui ha ascoltato. Quindi ci sono i ring shout, la musica degli schiavi, c'è lo spiritual, c'è il ragtime, c'è la musica per banjo, c'è il quartetto vocale addirittura, c'è una scena che lui rievoca, in cui rievoca i suoi quartetti in cui cantava. Quella che vi faccio vedere è la scena di We Are Going Around, cioè Trimoniscia sta col padre, Ned, a un certo punto sentono dei raccoglitori di cotone, e gli dicono, vabbè, prima di andare via, facciamo un ring shout, un ring play, dice lei testualmente. Il ring play è appunto una danza degli schiavi che nella coreografia che vedrete non è ricreata in maniera fedele, ma la musica lo è, con questo gioco di botta e risposta fra il solista e il coro. Joplin porta nella scrittura, direi quasi verdiana e tedesca, soprattutto nella scrittura corale, il folklore afroamericano. L'esecuzione che vedrete è visivamente scadente perché viene dall'unica che conosciamo video della esecuzione alla Grand Opera di Houston del 1975. È un po' schiacciata anche nel formato, ma accontentatevi, è un documento eccezionale. lies in me. All the time around. Be careful how you shake your feet. Se vi rendete conto, è un documento eccezionale. Joplin scrisse il libretto, Joplin ha scritto la musica, non è riuscito a scrivere l'orchestrazione perché ha cominciato a lavorarci ma non riusciva a trovare una produzione. Joplin ha scritto le didascalie dettagliate di tutte le coreografie, cioè ha fatto veramente l'opera d'arte totale nel senso wagneriano. E tutta questa storia in realtà non solo è un riferimento al pacifismo, ma come vedremo è anche un riferimento a Freddie Alexander, la sua compagna. Ma prima di concludere voglio farvi vedere così un pezzetto di un film che fu fatto per la TV su Scott Joplin nel 1917. La scena che vedrete è del tutto finta, non è mai accaduta, però rende l'idea degli ultimi giorni di Joplin, quando la sifilide gli impediva perfino di suonare. Lui va a fare un'audizione per cercare una produzione per Tremonisha. Nella scena vedrete anche in lontananza John Stark, che non poteva esserci nella scena, ma tanto per avere un'idea. Questo, pensate un po', è Samuel Fuller per gli appassionati di cinema. Whenever you're ready, Mr. Joplin. Alziamo un po' il volume, grazie. E ora ripercorre la sua vita suonando. Quello è Stark. Thank you. to set in a while. I know what you're saying. That can give you a devil of a time. I've got work to do. I'll go with you. No. In 1974, Scott Joplin's music won an Academy Award for The Sting. In 1975, his opera Tremonisha was performed successfully on Broadway. In 1976, he was awarded the Pulitzer Prize for Music. Scott Joplin died in 1917. Vediamo insieme meglio questa cronologia finale di Joplin. Negli anni 60 le sue carte, Joplin non era nessuno, quindi è stato buttato tutto, non abbiamo più le lettere, gli spartiti autografi, gli appunti, niente. Sono rimasti un rigo in cui lui orchestra un pezzo di James Scott, la firma sulle richieste del copyright e poco altro. Nel 65 vengono eseguiti estratti di Tremonisha, nel 70 il disco di Joshua Rifkin in cui lui suona Ragtime diventa un successo, nel 71 la New York Public Library pubblica, finalmente rendendo note a tutto il mondo, tutte le opere complete di Joplin, compresa Tremonisha, che nel 72 viene eseguita ad Atlanta con una nuova orchestrazione di T.J. Anderson. Nel 73 Schuller dirige i reg del Redback Book, quelli che abbiamo ascoltato. Quello stesso anno i dischi di Schuller ispirano Marvin Hamlisch, il curatore della musica della stangata, a usare The Entertainer nel film e la colonna sonora vince l'Oscar. Esplodono il Ragtime e il Joplin Revival. Tremonisha viene eseguita a Houston con l'orchestrazione nuova di Gunther Schuller, è quella che abbiamo visto prima. Scott Joplin nel 76 vince il premio Pulitzer come miglior compositore. Nel 77 viene prodotto il film che avete visto. Io concluderei questa storia incredibile con il finale di Tremonisha, dove sentirete tutto lo stile di Joplin, tutti gli stili. Sono pochi minuti di musica, ma sono incredibili. È la scena in cui Tremonisha viene incaricata di essere, la leader. E vi ricordo che Tremonisha è un omaggio a Freddy Alexander perché c'è una prefazione sulla partitura che dice dove e quando l'opera è ambientata e si vanno a controllare le date, si capisce che l'opera è ambientata quando Freddy Alexander era una ragazzina. Quindi Tremonisha è Freddy Alexander. Ma Tremonisha è anche un ammonimento a considerare la tradizione e la religione in modo critico. Per cui c'è attenzione per la religione, c'è attenzione per la tradizione, ma dice Joplin, badate bene a non stare dietro ai ciarlatani. È anche un'autobiografia utopica sulla presa di potere dell'intelligenza. Tremonisha è più intelligente degli altri e diventa la leader. E quindi è la celebrazione di una leader politica pacifista. E per certi versi è una parabola a favore della non violenza. Tutto questo è l'opera che Joplin non è mai riuscito a mettere in scena ed è in realtà, attenzione, la prima vera opera americana, non afroamericana. Questa è la prima opera che parla di musica e cultura americane, statunitensi. Nessuno all'epoca se n'era accorto. Gli intellettuali erano pronti a discutere su cosa fosse l'opera americana. Joplin l'aveva già fatto, l'aveva già indicato. E allora ascoltiamo e guardiamo, sempre dal filmato abbiamo visto, il finale, in cui si parla del marciare in avanti, sia appunto in termini così, diciamo, di futuro socialista, sia di descrizione della coreografia, perché tutta la coreografia è descritta in dettaglio da questo compositore geniale. dobbiamo avere un leader, dice. Siamo te come leader, dice il coro. Ci fidiamo di te. Va bene le donne, ma gli uomini? E gli uomini? Thank you. tutta questo brano. Numero finale, brevissimo. C'è un vero finale d'atto, come nelle opere. Joplin ha scritto anche la coreografia delle parti davanti. Thank you. schiavo che fonda l'opera americana. Grazie.